Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey, Olga e Debs. Bentornate e bentornati sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Siete su Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Avevamo già inaugurato questo 50° anniversario del 1968 con la puntata dedicata ai preti operai, e che potete riascoltare in podcast e con tutti gli approfondimenti su www.radiovalloon.info. E oggi riprendiamo questo percorso rimanendo in quel fatidico anno, ma cambiando decisamente rotta. Siamo a Roma il 1 marzo del 1968. In una mattina assolata e mite si consuma una vera e propria battaglia, quella tra gli studenti, 5.000 circa, e la celere schierata in tenuta antisommossa a difendere l'università di architettura, occupata pochi giorni prima e simbolo, insieme a lettere e filosofia, della rivolta che sta prendendo piede. Valle Giulia è il battesimo di sangue del movimento del 68 italiano. Possiamo anche dire, calcando un po' la mano, la fine di un rapporto, se non pacifico, abbastanza tollerante tra i rappresentanti dello Stato e i manifestanti. Studenti, per lo più in giacca e cravatta come si usava una volta, che rivendicano una nuova organizzazione dell'università, ma soprattutto una società più equa e giusta, dove anche l'operaio può sperare di avere il figlio dottore, per citare una famosa canzone incisa proprio in quell'anno. In quello che oggi chiameremo un instant book, l'anno degli studenti, Rossana Rossanda racconta quasi dal vivo quello che succede in quel primo marzo di 50 anni fa. Prendiamo in prestito le sue parole. Gli studenti ricorrono al sindacato, chiedono solidarietà, scioperi. Si attendono una solidarietà immediata, che non avranno. L'indomani mattina si raccolgono a Piazza di Spagna, decisi a conquistare la facoltà di architettura. La polizia li carica, li insegue incautamente tra aiuole e cespugli. Pesta, ma viene pestata. È la guerra. Per l'opinione pubblica è uno shock senza eguali. Vedere i propri figli cresciuti nella Golden Age del secondo dopoguerra protestare apparentemente contro il benessere acquisito è una spaccatura profonda, logorante, epocale. Qualcuno li chiamerà ingrati, altri rivoluzionari. Di sicuro sono i protagonisti, per la prima volta nella storia, di una rivoluzione sociale e culturale di cui, dopo 50 anni, si parla ancora. Noi oggi vi raccontiamo la battaglia di Valle Giulia in un'ottica un po' particolare. Come alcuni giornali dell'epoca hanno trattato questo evento, ma da che parte si sono schierati? Abbiamo scelto di sfogliare l'Unità prima di tutto e poi i settimanali Espresso, l'Europeo, dove al tempo si trovavano le migliori firme del giornalismo, e infine Epoca, rivista patinata e meno impegnata politicamente, ma con un profilo piuttosto conservatore, come sarebbe emerso di lì a un anno con l'invocazione dell'esercito alla greca per calmare la situazione. Ma prima di iniziare questa carrellata ci spostiamo esattamente dall'altra parte dell'oceano, dove i lunghi 60s stanno per volgere al termine. Al contrario dell'Italia, infatti, il 68 negli Stati Uniti rappresenta il punto finale della protesta. In quell'anno vengono assassinati Martin Luther King e Bob Kennedy, e i movimenti sembrano avere una battuta d'arresto. Il 1968 vede al primo posto delle classifiche degli Stati Uniti un album che ha fatto epoca, e la colonna sonora del film The Graduate, distribuito in Italia come Il Laureato, con un giovane Dustin Hoffman. Ci ascoltiamo oggi l'indimenticabile Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa. concern. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the robin sells a bear. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, this is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Torniamo in studio per iniziare questa intensa carrellata di giornali targati in marzo 1968, per scorgere insieme come questi abbiano trattato la battaglia di Valle Giulia. Sfogliare i giornali di 50 anni fa è un'esperienza incredibile, un po' uno di questi vizi da storici, piccole passioni che ci riserviamo. La grandezza che a noi sembra mastodontica, due foglie occupano quasi un metro di fatto, articoli scritti in un carattere minuscolo, fotografie poche e in bianco e nero, donano un senso di religiosità, come se leggere il giornale fosse, e probabilmente lo era davvero, un rito intimo e quotidiano. Un rito intimo e quotidiano a cui prestare grande attenzione, tanto più se il giornale di cui stiamo parlando è l'Unità, l'organo del Partito Comunista Italiano, che è il partito che alle elezioni politiche del maggio del 1968 sarebbe arrivato poi al 27% dei voti. Attenzione, 27% dei voti senza il voto di buona parte di quei giovani di cui stiamo parlando, i giovani di Valle Giulia, perché nel 1968 il limite per andare a votare, cioè la maggiore età, era ancora 21 anni. 2 marzo 68. Polizia scatenata contro gli studenti a Roma. Titolo grande nel taglio alto della prima pagina, con due foto della guerriglia. Il tono è chiaro. L'Unità si schiera a fianco degli studenti. Ciò che ha fatto il rettore della Sapienza, chiamando la polizia dentro e fuori l'università, è una provocazione del governo, con i ministri Taviani e Gui, rispettivamente interno e pubblica istruzione, e degli organi universitari. Ancora il 3 marzo. Sbarrata l'università a Roma, l'editoriale in prima pagina lo firma Giancarlo Paietta, partigiano e responsabile esteri del partito, ha un titolo eloquente, minacce per la democrazia. Ne leggiamo un pezzetto. Il ministro Taviani ha esaltato l'opera dei manganellatori. Egli ha tenuto davanti al Parlamento un discorso che è stato un invito ad operare sempre più brutalmente. La situazione è grave, preoccupa il disgregarsi e il corrompersi di una parte dell'apparato statale, l'incapacità, la pavidità dei governanti. Quelli che chiamano tipisti gli studenti del 1968 sono gli stessi che chiamarono tipisti i ragazzi del 1960. Ancora, pagina 3. Sempre del 3 marzo, Paolo Spriano, storico del PC, tenta un'analisi del movimento in un articolo sotto forma di lettera. Ci dice Spriano che questo è il movimento studentesco, è nuovo e serio. La sua spinta democratica e rivoluzionaria sembra essere autentica. La sua è una rivolta contro l'autoritarismo accademico e ha un forte contenuto socialista. Gli studenti stanno provando con i fatti che la spinta dal basso esiste e incide immediatamente. Ma, si chiede Spriano da comunista, il movimento ha caratteri di classe? Non assistiamo in questa fase ad un vero scontro di classe, ma gli studenti cercano un collegamento con la classe operaia. Spriano, in questo marzo del 68, ha già individuato, secondo noi, la seconda fase del movimento studentesco, quella della fine del 68, che con lo scemare della rivolta nell'università e la grande repressione da parte dello Stato, gli studenti avrebbero cercato un legame molto più intenso con un mondo apparentemente distante da loro, ovvero la classe operaia. Voltiamo pagina e occupiamoci dell'Espresso, settimanale di cultura e politica fondato da Eugenio Scalfari nel 1955, che nel 1968 è ancora in formato lenzuolo, come un quotidiano. L'Espresso tenta una spiegazione più culturale rispetto all'Unità di questo fenomeno del movimento studentesco, cerca di scovare i capi spirituali e i leader di questi studenti. Nel numero del 3 marzo non c'è menzione ai fatti di Valle Giulia, probabilmente perché il numero era già stato chiuso prima ed era impossibile all'epoca, immaginiamo, cambiare i pezzi in un solo giorno. Comunque leggiamo il titolo, 30 lode a Mao Zedong, di Sandro Viola, dove si parla dei testi che stanno ispirando il movimento, le parole della nuova sinistra europea, i quaderni rossi e i quaderni piacentini, si parla di Franco Fortini e di come fosse ridiscusso in un certo senso il disagio degli intellettuali di fronte ai fatti del 56. Sulle 10 marzo, in prima pagina, nel taglio basso, c'è il titolone, La battaglia di Valle Giulia. All'interno di due pezzi centrali, la cronaca della giornata e molte foto delle cariche della polizia e dei feriti tra gli studenti. L'altro titolo è Il fronte degli eretici, di Lino Iannuzzi, il giornalista che scoprì le carte del tentato golpe detto Piano Sole del 1964, in cui si afferma: è ormai in atto una rivolta non contro il sistema dei partiti, ma la formazione di un nuovo sistema di partiti, di un nuovo ordine civile. E si tratta in definitiva di un processo laico, nella misura in cui esso corrode e dissolve i blocchi tradizionali, il vecchio involucro clericale e il persistente involucro stalinista. When she goes, she's gone. If she stays, she stays here. The girl does what she wants to do. She knows what she wants to do, and I know I'm faking it. I'm not really making it. Such a dubious soul, and a walk in the garden wears me down. Tangled in the fallen vines, picking up the punchlines, I've just been faking it. Not really making it. Any danger? No, no, not really. Just lean on me. Take the time to treat your friend and neighbors honestly. I've just been thinking it. Not really making it. This lifetime. Ben ritrovate su Vallone, siete sempre con la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio su Radio Città Fugico e riprendiamo la nostra carrellata di articoli che raccontano la battaglia di Valle Giulia e il movimento studentesco del 1968 proprio a ridosso di quell'evento. Abbiamo letto l'Unità e l'Espresso, ora è la volta dell'Europeo, settimanale che all'epoca aveva in redazione i più importanti giornalisti dell'epoca, che aveva una tiratura di ben 230.000 copie alla settimana. L'Europeo è una rivista che non esce più, ogni tanto esce con qualche speciale piuttosto interessante che recupera articoli dal passato. L'Europeo lancia una rubrica che dura tutto il mese di marzo. Gli studenti rispondono, dopo che per tutto il mese di febbraio erano stati inviati giornalisti nelle università occupate per capire cosa stesse succedendo. Gli studenti rispondono è una rubrica in cui studenti da tutta Italia inviano le loro istanze al giornale, rispondendo ai dubbi dei lettori non studenti e facendo valere le proprie idee. Noi abbiamo deciso di riportarvi uno stralcio di uno studente bolognese che si firma un fuoricorso di lettere e filosofia e dice: vi mando un opuscolo firmato Organismo Rappresentativo Universitario Bolognese per testimoniare del lavoro attivo che cerca di svolgere il Comitato d'Agitazione Questo per tacitare quanti stolidamente vanno ripetendo che i giovani sanno solo protestare senza far nulla. Aggiungo che il rettore Felice Battaglia ha indirizzato una lettera ad uno studente tra i tanti che distribuivano volantini. Questo si chiama intimidazione. Di fronte a questo gesto, l'Assemblea degli studenti ha deciso l'occupazione della facoltà. Noi invece aggiungiamo una nota di colore perché abbiamo trovato nelle lettere al giornale, quelle che spediscono i lettori settimanalmente, sempre nella stessa edizione, che il signor Orlando Battaglini da Firenze scrive: «È vero che i partiti sono preoccupati per come voteranno i giovani perché oggi la gran parte di loro non si interessa alla politica?» Ecco, a noi ci è sembrata questa una delle mille sfaccettature del 68, sintomo di un blackout generazionale. Per gli adulti, quindi una generazione che, di cui anche noi avremmo fatto parte perché erano sopra i 30 anni, i giovani non si interessano alla politica perché questa è la politica tradizionale, mentre i giovani da questo momento in poi faranno politica, tra virgolette, con altri mezzi. Ed è questo stacco tra politica tradizionale e politica, diciamo noi, giovanile, diventa una caratteristica del lungo 68 italiano. Poi naturalmente, se queste lettere fossero state mandate oggi, una lettera firmata da un fuoricorso di lettere e filosofia sarebbe stato bersagliato con l'ignominia, perché è un tiratardi che non fa niente, che si perde tempo a fare gli opuscoli. Dopo l'Europeo passiamo ad una rivista di costume che ammicca la borghesia benestante, una rivista patinata che ha in copertina viaggi esotici, nuovi modelli di auto, i VIP del momento e che strizza l'occhio all'americana life. Parliamo di Epoca, che il 3 marzo titola La rivolta degli studenti e in un trafiletto fra i ribelli numerosi figli di papà, con molte immagini di scontri, subito dopo un lungo articolo indicante varie ipotesi sul perché gli studenti si sono ribellati. Eccone alcune. Ipotesi prosperità. I giovani stanno troppo bene. Ipotesi universale. Il mondo è percorso dall'anarchia. C'è la negazione di ogni ordine. Ipotesi provocazione. È una congiura comunista ai danni dello Stato. Con questa ipotesi l'autore si dice non d'accordo. Ipotesi goliardica. Lo spirito di rivolta naturale insito nei giovani. In ogni caso, in conclusione, l'autore dice che se si intervenisse con più vigore le rivolte cesserebbero e comunque resta agli anziani, ai politici e ai professori il dovere di ristabilire l'ordine nelle università e di renderne più efficaci i programmi. Il 10 marzo invece Epoca dedica vari articoli al tema di Valle Giulia, con più foto che cronaca. Un titolo grande è Università, il giorno più nero, con grandi foto in cui gli studenti incendiano le auto e la polizia li carica. Un altro pezzo è L'università italiana in subbuglio, con una didascalia alla foto degli scontri che dice «I programmi rivoluzionari dei giovani appaiono confusi». Con Epoca che rispecchia i valori della ricca borghesia degli anni 60, nelle prime 10 pagine ci sono gli spot delle nuove aziende italiane, con foto, prodotti e interviste ai proprietari, siamo esattamente di fronte all'opinione pubblica che, se non disprezza, di sicuro non può tollerare il subbuglio che hanno scatenato i loro figli, giovani ingrati, come dicevamo inizio puntata, che sono solo pronti a lamentarsi. La nostra speciale rassegna stampa finisce qui. Il 68 anno di miracoli, come lo chiama lo storico Silvio Lanaro, si è appena dipanato. Si concluderà, se così si può dire, solo una decina di anni dopo. Mentre noi di Vallun continueremo a raccontarvi qualche pezzo di 68 durante tutto l'anno. E Frey, per restare in tema, noi vi segnaliamo la mostra La Poésie est dans la rue in via Solferino 6, che parla del 68 francese, chiaramente, ed è fino al 30 marzo. Una mostra da visitare che vale la pena, di cui vale la pena approfittare per un pomeriggio diverso qua a Bologna. Per ogni altra cosa, appuntamenti e approfondimenti, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.radiovallun.info e a collegarvi alla nostra pagina Facebook, caso S-Vallun, sempre con due O, on air. Per oggi direi che è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey, Debs e Olga. Ciao! People have a tendency to dump on you. Does your group have more cavity than theirs? Do all the hippies seem to get the jump on you? Do you sleep alone when others sleep in pairs? Well, there's no need to complain. We'll eliminate your pain. We can neutralize your brain. You feel just fine. Bright green laser machine. Two figures of authority just shoot you down. Is life within the business world a drag? Did your boss just mention that you'd better shop around to find yourself a more productive bag? Are you worried and distressed? Can't seem to get no rest. Put our product to the test. You feel just fine. Bio-Green, bright green, pleasure machine.